Nei miei primi ricordi d'infanzia non c'è che un filo di settimane. E poi non parliamo di scuola, la detesto di tutto cuore. Dalla lavagna al gesso, dal libro alla campana, dalla cattedra al banco. La chitarra è la mia prima passione. Se c'è una festa e lo vengo a sapere, sì, là sì che ci vado ad imparare una canzone. Quando me ero nata con l'argento vivo addosso, neanche il demonio mi avrebbe acciuffata. E se a scuola ero piuttosto disastrata, in compenso ero di casa su nei boschi e la fine dell'anno mi trovava seduta su uno sgabello. Vorrei essere un alberello.